in modo da raccontare tutta l'autenticità che c'è intorno al cibo italiano, perché oggi è quello che fa la differenza. La gente vuole cibi autentici, sani, semplici, e l'Italia secondo me da questo punto di vista è campione del mondo. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa rovina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.